Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo proprio di economia. Parliamo addirittura di capitalismo, questo nome che designa un po' l'economia contemporanea con tanti aspetti che vedremo. Lo facciamo con Giuseppe Berta. Buonasera Giuseppe Berta. Buonasera. Giuseppe Berta è docente di storia contemporanea presso la Bocconi di Milano, fa un'attività di ricerca, scrive anche molti libri, è stato già ospite del nostro programma con libri dedicati appunto ai temi dell'industria italiana, dello sviluppo dell'industria italiana. E questo libro, Che fine ha fatto il capitalismo, è appena uscito dal Mulino. Il Mulino appunto ha dedicato questa collana, molti libri, a questo tema. Ma che fine ha fatto il capitalismo? Dà già una risposta, professor Berta, vuol dire che il capitalismo è finito? Il capitalismo italiano, il capitalismo storico, quello che abbiamo conosciuto, non c'è più. Che è sempre un paradosso, non viviamo forse certo. In un ambiente economico e sociale che è intriso, permeato dai comportamenti, dalla mentalità, dagli indicatori del capitalismo, certo, però la tesi di questo saggio è un'altra, è che mentre noi continuiamo a parlare per esempio di un capitalismo tedesco fondato sul rapporto banca-impresa, il sostegno allo Stato e così via, di un capitalismo francese, anche qui i campioni nazionali, la politica dello Stato interventista e dirigista, oppure il modello liberista tipico di un capitalismo più orientato verso la finanza, i mercati finanziari internazionali come quello inglese, ecco, quando arriviamo all'Italia che cosa diciamo? Non ci mancano le parole, perché abbiamo perso il nostro modello di capitalismo, vale a dire un capitalismo che a mio avviso per 100 anni circa, grosso modo dal 1880 agli anni 80 del secolo scorso, ha camminato su due gambe. L'una gamba era quella dell'iniziativa privata, delle imprese private, ma l'altra gamba era quella dell'impresa pubblica, ed è appunto questa gamba che è venuta a mancare con la crisi di fine secolo e il declino irreversibile dello Stato imprenditore, la scomparsa dell'IRI e così via. E cosa è rimasto? È rimasto un capitalismo privato che però è diventato più debole anch'esso. Non abbiamo più i nostri grandi gruppi storici, sono scomparsi marchi come Olivetti, Montedison, è rimasto certo Fiat Chrysler, ma è una impresa diversa, globale, certo. Non è più un'impresa del capitalismo italiano. Pirelli, la prima multinazionale italiana sorta addirittura nel 1872, oggi è proprietà di un colosso chimico dello Stato cinese. Ecco, di fronte a questa realtà mi viene da dire: noi abbiamo perso il nostro modello italiano di capitalismo. Ecco, premettendo magari questa citazione che lei fa di Einaudi all'inizio del libro, in cui il termine capitalismo è un mero espediente per identificare un capro espiatorio a cui addossare la colpa per tutti i guasti della società. Ecco, lasciando appunto come premessa questo fatto che il capitalismo può essere poi denominato in tanti modi, però resta il fatto che sicuramente, come lei dice, l'industria pubblica è tramontata rispetto agli ultimi anni del secolo scorso, ma il modello italiano, quello che lei nello stesso libro chiama il modello italiano, il modello dei distretti, il modello delle medie imprese, è ancora un modello che possiamo dire vive e lotta insieme a noi. Questo è un modello molto radicato. Io devo dire che appunto l'autore che più mi ha influenzato in questo senso è proprio Luigi Einaudi. Luigi Einaudi già all'inizio del Novecento guardava con sospetto al mondo della grande impresa e soprattutto agli intrecci che esistevano e si creavano tra le grandi imprese, il mondo della politica, anche il mondo dei giornali, cioè vedeva in tutte queste cose un coacervo di interessi che minavano che cosa? La funzionalità della nostra espressione economica migliore, che era legata all'iniziativa privata di base, in sostanza i produttori che agivano nello specifico ambito del mercato. Ecco, abbiamo detto lei molto bene, che Einaudi non amava la parola capitalismo, a cui dava un valore esclusivamente politico, però Einaudi amava il mercato. Ecco, a me sembra che il meglio della nostra esperienza, il meglio dei nostri territori, ma anche delle nostre città dinamiche che hanno guidato il primo sviluppo italiano tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, si situi non tanto nella sfera altissima delle relazioni internazionali dominate da grandi soggetti capitalistici, quanto nella sfera propria del mercato. Così ci vedeva un grande storico del secolo scorso come il francese Fernand Braudel, quale diceva: ma lo spazio dell'economia territoriale italiana è lo spazio del mercato. Il mercato per Braudel era quello spazio intermedio che c'era tra la dimensione economica legata alla sfera della sussistenza, cioè della ricreazione delle condizioni necessarie alla vita, e il vertice dominato da grandi gruppi oligopolistici internazionali che si muovevano con rapidità su reti lunghe e che si spostavano in base alla loro opportunità e convenienza economica rapidamente da un settore all'altro. L'Italia, secondo Braudel, non era questa. L'Italia aveva una sua densa consistenza intermedia. E non a caso, ecco, io credo che meritoriamente le indagini di Mediobanca in questi ultimi 20 anni, utilizzando i dati elaborati da Unioncamere, ci hanno mostrato come il nostro sistema imprenditoriale sia più vivo e vitale proprio nello spazio intermedio. Sono le medie imprese, certo, oggi quelle che in fondo acquisiscono risultati migliori alla nostra economia produttiva. Quindi lei non è contrario a definire questo stadio il quarto capitalismo, come viene definito, dopo il capitalismo tradizionale, quello pubblico. È uno spazio che è diverso da... Quando noi parliamo di capitalismo, cosa intendiamo oggi? Intendiamo, abbiamo in mente tutti i colossi, abbiamo in mente Apple, abbiamo in mente Google, abbiamo in mente Amazon, abbiamo in mente le grandi piattaforme tecnologiche soprattutto. È questo che domina, anche se vuole, l'immaginario collettivo. Noi ci muoviamo invece in un'altra dimensione, che magari è più ridotta, ma è più concreta ed è estremamente vitale. Sta a noi, come dire, capire le tendenze internazionali e mondiali e tenerne conto naturalmente, ma continuare a muoverci e a promuovere il nostro specifico. E il nostro specifico sta in questa fascia intermedia. È qui che è la dimensione autentica dell'Italia, è in qui che possiamo trovare la sua cultura economica profonda ed è qui anche che possiamo trovare una continuità di comportamenti vitali che trapassano dal mondo del lavoro al mondo dell'impresa, che non sono in questa fascia così separati e che io vedo invece piuttosto interdipendenti e complementari. Ecco, ma in questa prospettiva lei cita molto spesso nel libro Giorgio Fua le sue analisi sui distretti, sull'economia territoriale, secondo anche una visione che viene da Adriano Olivetti. Ecco, certo, c'è una prospettiva in futuro per consolidare queste realtà, le realtà dei distretti, le realtà... Secondo me c'è, se noi riusciamo a capire le vocazioni profonde dell'Italia e pensiamo che ci sia un'attitudine che va al di là anche del giustamente celebrato Made in Italy, ma qualcosa di più, è un'economia che si lega e si radica sulle specificità e sulle qualità e sulle competenze dei nostri territori. E questo l'aveva capito, come ricordava lei poco fa, un grande imprenditore come Adriano Olivetti. Adriano Olivetti ha creato una grande impresa, però è un'impresa che non ha mai trascurato la base territoriale, e Adriano Olivetti proprio ricordava come accanto alla grande impresa dovesse coesistere un variegato arcipelago di attività minori che non erano solo complementari, ma che erano essenziali per il mantenimento e lo sviluppo di quelle specializzazioni e di quelle competenze di cui il territorio era il miglior custode. Ecco, in questo senso si può parlare ancora di politica industriale, di necessità di rilanciare più i territori che non le singole imprese, di dare più una caratteristica di efficienza efficienza al territorio più che di entrare nel merito delle scelte imprenditoriali. Direi che è proprio questo, che oggi le medie imprese sono tali anche perché svolgono una funzione di collegamento e di coordinamento, cioè la media impresa diventa anche una piattaforma organizzativa che valorizza le opportunità e le capacità migliori presenti in un territorio e agisce lungo assi di filiera. Ecco, noi dobbiamo curare maggiormente le nostre filiere, dobbiamo puntare sulle imprese che sono capaci di integrare funzioni differenti tra di loro e che le sanno mettere assieme e sanno far dialogare soggetti diversi. Da questo punto di vista, tutte le volte che mi capita di analizzare delle esperienze imprenditoriali, di entrare semplicemente a contatto, io vedo una capacità organizzativa e progettuale che è specifica del nostro paese, ma anche che riesce a esprimere tecnologie, approcci tecnologici sofisticati. Io non dimenticherei che l'Italia, per entità di processi di robotizzazione, è il secondo paese d'Europa, dopo ovviamente la potente Germania, lo sappiamo bene, però noi siamo al di sopra della Francia, siamo al di sopra del Regno Unito. Ciò vuol dire che anche se non abbiamo grandi o grandissime dimensioni, ma abbiamo dimensioni intermedie, possediamo però delle specializzazioni e delle competenze tecnologiche che sono sofisticate e che possono connetterci al mondo. Ecco. Noi grazie. Non siamo detentori di grandi piattaforme, ma possiamo collegarci con esse. Grazie professor Berta, soprattutto anche per questa immagine finale che ci ha dato di un'Italia collegata col mondo e con le capacità di fare concorrenza al mondo, perché dobbiamo dare una prospettiva in fondo di una realtà che sicuramente può essere finito il capitalismo, come dice il titolo del suo libro, però c'è un altro modello che forse possiamo costruire in cui l'Italia può avere il suo ruolo. Grazie al professor Berta di essere stato con noi questa sera, ringrazio anche Roberta Frisani in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che abbiamo parlato del libro Che fine ha fatto? Il capitalismo italiano, edito dal Mulino, 160 pagine per 14 euro, con Giuseppe Berta, docente di economia contemporanea all'Università Bocconi. Grazie e buona serata a tutti.